ma il mio cuore con te canta. Il dottore, appena guarisco, mi ha consigliato il vaccino. Ma che cosa mi serve se ascolto ogni giorno il tuo cammino? Raffaele da Napoli, c'è. Accendo una gran fiamma quando ascolto il tuo programma. Sento il cielo più vicino se c'è Gigi D'Agostino. Ti aspetto il 28 e il 29 dicembre in Calabria. Lorena. Gigi D'Agostino, un piccolo paese fuori dal mondo. Caterina, ti amo. Edo da Albenga. Se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso. Pioggia e sole abbaiano e mordono, ma lasciano il tempo che trovano. Il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai. Sempre e per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Cammino di Gigi D'Agostino. Benvenuti nel mondo che non c'è. Sono Simone di Torino. Oggi sono 3 giorni che dormo di giorno perché lavoro di notte, ma alle 18 suona la campanella e la vita si fa bella. Non si può rinunciare al cammino. È vero, è vero. Un saluto al mio grande amico, nonché compare di live, Gianca. Ciao, sono Gigi D'Agostino e ho qualche piccolo problema di equilibrio al suolo. Musical Mental Gigi D'Agostino, un DJ con le balle. Ciao, sono Gigi D'Agostino e ho qualche piccolo problema di equilibrio al suolo. Volevo mandare un abbraccio caloroso ai tre amici del quartetto Sega. Eh sì, tre, perché il quarto sono io. Quartetto Sega. Quattro uomini che hanno fatto della solitudine un momento di festa. Che cos'è Torino senza Gigi D'Agostino? Domenica pomeriggio, 10 dicembre 2006, dalle ore 14, Gigi D'Agostino suona in Piemonte. Discoteca Lagar, Torino. Così, e se vi parlo, domenica pomeriggio, ci vediamo alla gara. Ti amo da quando sei nata. Tuo babbino Flavius da Faenza. Un viaggio incontaminato. Un sentiero innamorato. La semplicità di un bambino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il tuo peperoncino. No, così. Lucia, quando arrivi a casa, trovi una bella cenetta. Mirko D'Alecco. Omar, ti amo. Che bello averti ancora vicino. Volevo sparire e invece mi sono resa conto che la vita è stupenda, perché ci sei tu con me. Ambra. Dicembre 1980. John Lennon ci lascia per sempre. People say I'm crazy. From ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. Advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. Di là, ma vengo di qua. È il momento della pubblicità. La vita è più bella quando suona la campanella. Poesia dedicata ad Anna Maria. Come un fuego destruiste mi alma, como el agua acuistante mi sed. Sin pararte tu cara reina en mi cama, no me deja vivir. Dominando mi fe, dulce veneno que mientras nutre mata más. Yo te quiero como la vida que me das. Carlo da Roma. Quiero ballar. Otra cosa, la mia mente è smusicosa.

Che cos'è Torino senza Gigi D'Agostino? Domenica pomeriggio, 10 dicembre 2006, alle ore 14, Gigi D'Agostino suona in Piemonte, discoteca La Gar, Torino. Il cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. Potete far sentire la vostra voce. 333-64-67-662. Volevo dedicare Per me amore a Luca, il mio grande amore. Io è da 7 mesi che vivo. Tua, Luana. Mi piace guardarti giocare. Mi piace vedere la gioia nei tuoi occhi. Gigi, cantami la tua poesia. Per me amore. Davide. Mi piace sentire le tue lacrime sul mio petto quando ci perdiamo nei nostri abbracci. Sentire quel pianto è una stretta al cuore. Volevo salutare il mio amore Tiziana, che in questo momento mi manca tanto. Gianfranco da Asti. Quanto amore in quelle mani quando si stringono le mie. Sono la Tamarrina di Treviso. Suona per me amore a Daniele, perché lo amo, anche se ora è insieme a Giulia. Riesco solo a non dire niente quando vorrei dirti tutto quello che siamo e quando ci sfioriamo. Non so cosa vuol dire amore. Forse vuol dire sentirsi vivi. Forse. Vorrei salutare la mia piccola Giusy di Biancavilla. Mi manchi un casino. Luigi da Roma. Forse può capirlo e spiegarlo solo chi non ha amato. Perché chi ama non lo sa spiegare. Per me, amore vuol dire aver incontrato te. Forse può capirlo. Per me, amore vuol dire aver incontrato te. Gigi, vorrei dedicarti Per me amore, perché grazie alle tue parole, ora io e la mia ragazza siamo una cosa sola. Nulla di complicato, ma pure semplice amore. Cristian da Novara. Grazie ancora, Gigi. Non voglio difendermi da tutto questo. Tutto questo. Tutto questo. Tutto questo. Mi lascerò travolgere anche dalla sensazione che mi devasterà il giorno che tu te ne andrai. Riesce ad amare solo chi non vuole difendersi dall'amore. Per me amore vuol dire aver incontrato te. Fai suonare un brano da sogno per Daniele, il mio piccolo cucciolo che si è fatto male a scuola. Alberto da Roma. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni.

D'Agostino. Musica che unisce. Nei momenti difficili ti ascolto e torno a sorridere. Vorrei sentire la mia canzone preferita, L'Amour Toujours. Ile da Bologna. Sono Francesco di Votto. Volevo dedicare L'Amour Toujours a Deborah, perché non l'ho mai dimenticata. Sono Omar da Tecchiena. Vorrei dedicare l'amour toujours alla mia ragazza Giorgia. L'amo tanto. I still believe in your eyes. There is no choice, I belong to your life. Because I live to love you someday. And I'll fly with you. I'll fly with you. Sono Mario da Pescara. Dedico l'amour toujours ai miei due angioletti, Matteo e Ludovica. Oggi i miei nonni compiono 59 anni di matrimonio. Gli dedico l'amour toujours. PMK81 da Barletta. Mi chiamo Diego da Latina e faccio il tornitore. Gigi, ti ascolto sempre. Volevo dedicare l'amour toujours alla donna più importante della mia vita, la mia mamma.